Radio 24. Libera la voglia di fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold. I got faith in you, baby. Eccoci qua, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. Quando sono le 7:35 minuti inizia una nuova puntata di Si può fare. 800 24 00 24, il buongiorno del weekend su Radio 24. Carlo, Milano, Monterosa? Purtroppo noi siamo alla trasmissione delle buone notizie, ma o qua, perlomeno di trovare un buon modo per leggere anche le brutte notizie. Però piovigina, ed è proprio quella roba un po' bruttarella milanese che sgocciola al momento. Sgocciola, è così, sgocciola, perché non è che piove. È una giornata bigia. Da queste parti. Altrove c'è anche un'allerta meteo, per esempio, che riguarda Livorno per altre piogge molto forti. Ne parleremo dopo. È molto più serio, ovviamente, molto di la situazione. Molto più serio, questa ne parleremo più una questione di umore. Dopo il GR delle 8, perché mentre ogni frana e ogni alluvione assistiamo, come è successo anche questa settimana, al rimpallo di responsabilità tra chi dirama l'allerta, chi deve fare la manutenzione dei fiumi, chi invece deve fare le procedure per la messa in sicurezza delle città, noi abbiamo a disposizione dei metodi di prevenzione scientifici precisissimi che funzionano alla grande, che non utilizziamo, ed è una cosa incredibile, perché cosa ci vuole ad investire un po' di denaro pubblico per mettere in sicurezza queste città con questi sistemi? Cosa ci vorrebbe? Un po' di denaro cosa pubblico credo che ci vorrebbe. 800 24 00 24, ne parleremo dopo il GR delle 8. E poi stiamo con voi anche per ricevere le vostre telefonate, per giocare con noi. Come sempre mettiamo insomma, chi telefona e chi ci convince di più con la sua telefonata del vince. Sabato e dell'Omega vince un libro. Anche oggi il PIL generato dalle biciclette nella settimana della mobilità è stato calcolato in una cifra pazzesca, dai 4 ai 6 miliardi. C'è dentro tutto. Allora, guarda, il mercato delle bici, i benefici per la salute, addirittura meno assenteismo sul lavoro. Perché questo? Non lo so, forse perché ci si ammala di meno andando in bicicletta. Meno gas serra, questo è sicuro. Sì, meno danni dal rumore, insomma tante cose. No, è incredibile, comunque è una roba da andare a vedersi, perché è una notizia pazzesca. L'ha calcolato Legambiente, però insomma. Esatto. E noi ci fidiamo. È bello anche che si risparmia anche per la questione della salute, perché poi si spenderà meno come salute pubblica. Bravo. Però è impegnativo per ognuno di noi, costa fatica. Allora noi vi chiediamo, cari ascoltatori, di farci da motivatori. Chiamateci, voi amanti della bicicletta, all'800 24 00 24. Dateci una buona ragione vostra, la vostra buona ragione per mollare l'auto ogni mattina e andarcene in bici. In bicicletta. Allora, andiamo sui titoli della rassegna stampa di oggi. Tutto ruota attorno, molto ruota attorno al cosiddetto caso Consip. Vediamo, allora, Corriere della Sera, PD all'attacco su Consip. È eversione che succede. L'inchiesta e le pressioni anti-Renzi, l'ex premier parla di fango che si ritorcerà contro chi ha tradito deve pagare. Adesso proveremo a spiegarvi. Caso Consip, scrive Repubblica, manovre e veleni, Renzi creato solo per colpirmi. Esatto. C'hai qualche altro titolo su questo? C'avevo sotto Repubblica anch'io, e io sono comunque. Però invece il Fatto Quotidiano, anche perché è molto più legata alla questione del caso Consip, sì, perché è la questione delle intercettazioni, sì, della fuoriuscita, sì, di notizie, del fatto che è uscito il nome del padre di Renzi sul giornale e che quel giorno tutti abbiamo detto: ah, ma quindi cosa sta succedendo? Il Fatto Quotidiano apre con: si inventano un golpe per insabbiare arrabbiare Consip, quindi rimangono sulla loro. È interessante che La Verità, un giornale d'orientamento politico opposto al Fatto Quotidiano, ha lo stesso titolo, titolo gemello, è questo: Renzi si inventa il colpetto di Stato, il PD sbarella su procedure e banche, le pubblicazioni dei verbali dei carabinieri indagato scatenano gli amici del segretario, siamo all'eversione, ma il polverone, scrive La Verità, nasconde la vera domanda, quella circa la responsabilità di Lotti e dei generali sul caso Consip. Tra poco vedremo qualche approfondimento. E invece però... il giornale dice Renzi sa chi sono i mandanti del complotto, l'ex premier contrattacca, un assalto alle istituzioni, ma Gentiloni lo sorpassa nei sondaggi. Però sui titoli, il miglior titolo, il super titolo di oggi è... Eccolo qua, il super titolo è Il Manifesto, perché scrive: non è una barzelletta. Riferendosi ai due carabinieri, il titolo è perfetto. Credo che dovremmo comunque trovare la pensiate, eh? Cioè, esatto, credo che dovremmo trovare un sistema per non far vincere questo premio tutti i sabati a Il spesso. Manifesto, perché come titolisti sono assolutamente i numeri uno. Non è una barzelletta. Allora, però, dicevo, al di là di come la si pensi, perché fra poco vediamo, è così, tra poco vediamo gli approfondimenti. Vediamo qualche altro titolo e quindi torniamo a parlare del caso Consip, però per esempio, beh, in realtà non tutti aprono su Consip, perché c'è anche ovviamente chi parla della questione della Lega di Salvini e la questione dei PM di Salvini, che si è scagliato contro i PM e gli stessi PM che hanno risposto dicendo forse si sta andando anche un po' oltre alla giusta libertà e al diritto di critica. Qual è il titolo? Salvini PM, scontro aperto. Caso Consip, Renzi dopo il caso Consip, come ci siamo detti. Io ho sul Corriere della Sera secondo titolo principale: le nuove regole dei 5 Stelle, Grillo non sarà più leader, il candidato a Palazzo Chigi diventa il capo politico. E questa è un'altra notizia. Ah no, di questa tanti in realtà ne parlano, del fatto che si è deciso che chi vincerà le primarie diventerà il capo politico dopo Grillo, è giusto? Ho capito giusto? Esattamente. C'è anche lo Scuorno di Napoli, ora cerca famiglia, perché il progetto del sindaco De Magistris di mettere sul lungomare di Napoli una torre a forma di corno rosso è stato bocciato dalla sovrintendenza, lo vedremo dopo. Adesso però sentiamo il nostro Andrea Ferro, i giornali che vorrebbero i lettori, cosa vorrebbero trovare sui giornali e cosa invece, glielo diciamo noi, cosa c'è sui giornali, cioè se queste aspettative in qualche modo vanno soddisfatte oppure no. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Ecco una specie di rassegna stampa on the road tra notizie che si vorrebbero leggere e notizie già lette. Cosa vorrebbe leggere domani sul giornale? Che notizie? La Verità, scrivono sempre quello che vogliono. La storia di questa ragazza di 16 anni ammazzata. C'era stata la denuncia, non riesco a capire come non abbiano fatto qualcosa per evitare una tragedia simile. Lei legge i giornali? No. Perché? Perché guardo il telegiornale. Basta quello? Sì. Ecco, ma c'è una notizia che vorrebbe leggere, o meglio sentire dal telegiornale, che non ha mai sentito, che rispecchia comunque una realtà ignorata? L'AIDS, sì. Una volta se ne parlava tanto, ora non più. Una volta l'anno. Sì. Non vorrei leggere più di stupri di donne, sinceramente. È una notizia continua, siamo nel 2017. Ius soli? Io sono favorevole. No, io so, spero che cada definitivamente. C'è una notizia che non ha mai letto, che però avrebbe voluto leggere, secondo lei rispecchia quello che accade nel mondo e viene ignorato? Non saprei. Beh, l'ultimo non è male, non saprei. Cioè, poi alla fin fine c'è anche chi non ha aspettative, non saprei. Cioè, che notizie vorresti? Boh, che ne so. E soprattutto è bello anche, è bella questa rubrica, perché in realtà le notizie poi si possono prendere da due parti. C'è chi dice vorrei che si parlasse di questo tema perché è un tema importante. Qualcuno che dice vorrei che non si parlasse di questo tema perché spera che se non se ne parla sui giornali in realtà le cose non accadono. Bravo, no? Perché qualcuno che dice non voglio più sentire parlare di stupri, non è che vogliamo, non è qualcuno che vuole che gli stupri vadano avanti ma che non se ne parli sui giornali, ma che si interrompano gli stupri. Invece all'ascoltatore che vuole che si parli di politica in senso di soluzioni, noi siamo il programma che fa per lui, perché noi parliamo sempre di buone pratiche, di politica che dà le soluzioni. Prima di arrivare però alle nostre buone notizie, come anticipato qualcosa anche sul caso Consip, i giornali, giusto per spiegarvi che cosa sta succedendo. Ieri Renzi, dopo le dichiarazioni del pubblico ministero Musti al CSM, all'organo di autogoverno dei magistrati, incontrati su questa fuga di intercettazioni, ha detto: lo scandalo è nato per colpire me, credo che colpirà chi ha falsificato le prove per colpire il Presidente del Consiglio. Franceschini parla di cose di una gravità inaudita, la parola complotto viene pronunciata da altri membri del Partito Democratico, non da Renzi. Però nella sostanza di questa questione stiamo parlando di una inchiesta Consip che è complicatissima, ci vorrebbe una settimana per riepilogarla tutta. Allora, c'è il filone principale che riguarda la corruzione, il principale indagato è Alfredo Romeo, imprenditore napoletano accusato di aver versato tangenti, così su Repubblica, a dirigente Consip Marco Gasparri. Poi c'è la, il falso che riguarda i carabinieri del NOE Scafarto, accusato di avere falsificato le informative per tirare in ballo Renzi al posto di altre persone. È indagato il padre di Renzi per traffico illecito di influenze, è indagato per rivelazione del segreto di ufficio Luca Lotti, ministro dello sport. E poi l'ultimo è stato il PM napoletano Woodcock, indagato per violazione del segreto d'ufficio. Quindi capite che, cioè non capite, nel senso che non ci si può capire umanamente molto, e di qui anche la diversità dei, dei titoli. Tra poco torniamo sui titoli del giornale di oggi, prima però vi voglio far sentire la notizia incazzata di oggi, perché ci abbiamo un appello. Vai, sentiamoci anche qui la sigletta. Allora, la notizia è questa: la dirigente scolastica del liceo scientifico Cannizzaro di Palermo ammette, Anna Maria Catalano, mancano i banchi e le sedie a scuola, non possono iniziare praticamente l'anno scolastico. Chi può aiutarci? E allora qualcuno l'aiuti in questa scuola, altro che tablet, dice, qui mancano proprio i banchi, non può iniziare praticamente l'anno scolastico. Questo accade anno 2017 a Palermo, facciamo qualcosa per questa scuola. Facciamo un appello, noi ci siamo sempre quando c'è da fare un appello del genere, diamo una mano al liceo Cannizzaro di Palermo. Traffico. Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Allora, il taglio ai costi di bancomat e carte, micropagamenti più semplici, scrive il Sole 24 Ore, mi sembra una buona notizia, o no? Beh, insomma, direi, certo, un'ottima notizia. È una vita che se ne parla. Di cosa stiamo parlando? Del fatto che il caffè al bar, il giornale in edicola, il biglietto dell'autobus, chiedere all'esercente di pagare con carte di credito, anche per piccoli importi, d'ora in poi sarà più semplice. Il limite viene fissato allo limite massimo, allo 0,2% del valore della transazione per il banco. 0,3 per le carte di credito. Ah, avevo capito che fosse per i ritiri, quindi in realtà è una cosa, è una questione che interessa più i commercianti che i commercianti giustamente se ne lamentano molto, perché sì, soprattutto ti dicono spesso che ce l'hanno rotto il bancomat perché non vogliono che tu paghi con il bancomat. Ma è successo quest'estate al ristorante, sembrava una cosa che non succedeva, soprattutto sui taxi si rompono moltissimo i bancomat. Un'altra buona notizia, anche se si parla di tasse di solito non sono legate alle buone notizie, una nuova tassa, la cosiddetta web tax, di cui abbiamo parlato lungamente settimana scorsa, c'è un primo sì da 9 paesi della comunità europea, anche se l'obiettivo è il consenso di tutti. Sale a 9 il numero dei paesi favorevoli alla proposta di tassa. A quelle che l'hanno proposta, che sono Francia, Germania, Italia e Spagna, si sono aggiunte Austria, Bulgaria, Grecia, Slovenia e Lettonia. E vedremo dove arriveremo di questo passo. Speriamo di arrivare fino a Google, come si suol dire. Bravo. Questa non è tanto una buona notizia quanto una richiesta. Marijuana, la rivolta delle regioni, scrive La Stampa a centropagina, pronti a produrre quella terapeutica, lo dice il governatore della Puglia Emiliano. Succede che da un po' di tempo a questa parte è consentita, molti anni è consentita la marijuana a scopo terapeutico, dal 2014 la produce il Centro Farmaceutico Militare di Firenze, ma ne produce troppa poca. E non basta. È una richiesta, come dici tu. È assolutamente è un SOS. Portateci più marijuana. O si importa dall'Olanda, ma costa cara. Oppure dicono i governatori della Puglia, dell'Emilia Romagna e della Toscana, la possiamo produrre anche noi. È giusto. Aiutiamoci a casa nostra a fare la marijuana. Invece dico una cosa brevissima: mi è piaciuta in un'intervista a Sepulveda, che è in prima pagina del Fatto Quotidiano, poi più avanti, dove dice i politici devono leggere almeno 2 libri al mese. Ah. Due libri al mese. Io no, 2 libri al mese non ce la farei neanche proprio. Ma cioè, come? Ma però di tempo ne hanno, è vero, non lavorano. Quindi. Scherzi a parte. Allora, adesso è il momento di ritrovare Marco Boschini dell'Associazione Comuni Virtuosi. Vi raccontiamo la ribellione delle buone idee. Il comune ribelle della settimana. Qual è? Sentiamo un po'. Il comune ribelle di questa settimana è Racale, in provincia di Lecce. Qui la comunità di 10.000 abitanti, guidata dal sindaco Donato Metallo, si è inventata un progetto per promuovere la bellezza attraverso l'arte di strada e i giovani, trasformando quella che di solito è vista come un'attività illegale in un'azione di distribuzione capillare di poesia. Il territorio urbano è il luogo reale di contesa e di coesistenza, si legge sul sito di Via Vai Project, animato da un gruppo di giovani del territorio e sostenuto dall'amministrazione comunale. Alcuni edifici della città vengono presi di mira da artisti provenienti da tutto il mondo e come per magia quegli spazi attraversati con distacco dai cittadini residenti diventano un'occasione di incontro e di confronto. La bellezza salverà il mondo, scrive Dostoevskij, per il momento sta salvando Racale. Ma che meraviglia, Marco Boschini, grazie. Questi la bellezza salverà il mondo. I comuni virtuosi. 800 24 00 24. Vi chiediamo questa mattina, nell'inizio della settimana della mobilità sostenibile in tutta Europa, di darci una buona ragione per mollare l'auto e prendere la bicicletta. Stavo dicendo imbracciare la bicicletta, ma non so come si dice. Inforcare. Francesco da Piacenza, il primo ascoltatore. Buongiorno. Io uso la bicicletta al posto dell'automobile ormai da più di 10 anni. Bravo. Quindi sono un automobilista pentito. La uso anche su distanze per lavoro che vanno di 50 km, che lavoro nei cantieri edili, faccio l'architetto. E ho trovato questo mezzo molto conveniente. Qual è il tuo? Molto spesso sì, nell'attraversamento dei centri urbani, sì, con rigore e osservando le regole, quindi senza mettersi in pericolo, si pareggia il conto del tempo impiegato o addirittura si fa prima che nel ciclomotore. Cioè più veloce. Quindi, ma stiamo sentendo anche delle macchine, sei in mezzo alla strada? Io adesso sto andando all'asciugatrice, sono uscito. Sto andando ad asciugare i panni stamattina perché ho un po' di tempo e ci sto andando in bicicletta. Beh, naturalmente. Quindi già questa mi sembra un perfetto, nel senso che rispondere e chiamarci mentre sei in bicicletta già è un buon punteggio. Naturalmente, ma non sto, ovviamente. Non sto pedalando. Non siamo i vigili. Non bravo, siamo Francesco, i vigili. Bravo Francesco, questa è la buona. Il buon motivo è la velocità, perché lui dice molte volte si pareggiano i tempi, se non addirittura si arriva prima. Sembra di no, ma si va più veloci. Grazie. 800 24 00 24, vi aspettiamo anche dopo il giornale radio. E poi parleremo di sicurezza dopo le alluvioni di Firenze, perché di fronte al rimpallo di Livorno, al rimpallo di responsabilità tra comune, protezione civile e regione, che accade ogni volta, noi abbiamo degli strumenti di previsione le alluvioni precisissimi, ce n'è uno che viene da Valdagno, ve lo racconteremo dopo il GR delle 8 e noi ci chiediamo perché non c'è in tutti i comuni, perché cosa ci vuole investire per avere in tutti i comuni un sistema come questo che può salvare delle vite umane. Ne parleremo dopo il GR delle 8, a più tardi. Si può fare. Il 24 settembre la Germania va alle urne. Secondo tutti i sondaggi, la CDU di Angela Merkel vincerà sull'SPD di Martin Schulz. Ma sono molte le implicazioni per il futuro dell'Unione. Un voto che coinvolge 82 milioni di tedeschi e riguarda 500 milioni di cittadini europei. Il viaggio verso il voto tedesco. In onda da lunedì 18 settembre su Radio 24 e su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, quando sono le 8:19 minuti rientriamo in diretta. Buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Buongiorno da Carlo Gabardini. Vi aspettiamo 800 24 00 24. Cari ascoltatori, tra poco abbiamo sentito uno di voi prima della chiusura. Vi chiediamo intanto un buon motivo. Si apre in questi giorni la settimana della mobilità sostenibile. Un buon motivo per mollare a casa l'auto e andare finalmente in bicicletta, o anche non l'auto, in qualunque tutto modo che vuole, cioè... tutto quello che io dovrei mollare il motorino. Esatto, buoni motivi per inforcare la bicicletta. Perché è stato calcolato da Legambiente, il PIL prodotto dalla bici in Italia vale tra i 4 e i 6 miliardi di euro. Ci sono tantissime voci che migliorano addirittura anche la nostra economia utilizzando la bicicletta, però è impegnativo, no, per ognuno di noi. Quindi vi vogliamo come motivatori, cari ascoltatori, per darci un buon motivo per utilizzare la bicicletta. A proposito di bici, Carlo, c'è una curiosa notizia che viene da Bologna, dove un signore, un americano che vive a Bologna da un po' di tempo, ci voleva un americano, ha inventato questo sito che si chiama Bologna Bike Watch. È un sito bellissimo. Nel quale si possono postare foto di biciclette rubate. I bikers, i ciclisti se le annotano mentalmente. Se in giro la trovano appoggiata a qualche rastrelliera, allora cosa fanno? Chiamano, mettono un lucchetto. Un secondo lucchetto, la rilucchetta. La rilucchetta, chiamano i vigili urbani e poi si controlla a quel punto se è stata punzonata oppure se c'è una regola denuncia e la bicicletta torna al proprietario. È un metodo che sta funzionando. Mi sembra una notizia bellissima. Lui si chiama Kirby Kaufman e la cosa che volevo dire è che mi sembra molto bello, perché tutti noi abbiamo avuto l'esperienza della bicicletta rubata e tutti noi, almeno io sicuramente, ho reagito così dicendo vabbè, ma tanto non la ritroveranno mai. Ecco, se si cambia questo paradigma per cui in realtà le biciclette rubate si possono invece ritrovare, forse smetteranno di rubarle. Molto bene. Invece un'altra buona notizia, o perlomeno una buona notizia in potenza: crescono in Italia gli italiani che lasciano soldi in beneficenza con il testamento solidale. Cos'è il testamento solidale? La possibilità di lasciare una parte del proprio patrimonio a ONG o enti di beneficenza. È una buona notizia perché in Italia c'è una particolare legislazione sull'eredità, quindi in realtà c'è la cosiddetta legittima e quindi l'obbligo di lasciare i propri figli alla propria moglie o al proprio marito una parte dei propri soldi, però su un quarto del proprio patrimonio si può disporre liberamente, si può decidere di lasciarlo. È stato fatto un sondaggio e il 14% degli italiani si dice pronto a inserire nelle disposizioni post mortem un lascito ad associazioni benefiche. Pronto. È ancora una buona notizia perché sono pronti, poi bisogna vedere nel momento in cui firmano. Si può fare anche da vivi, cioè nel senso si anche deve se fare siamo in da salute vivi. No, anche se uno è in salute e non pensa al testamento, cioè può fare una donazione, ricordiamocelo. Allora, adesso è il momento di parlare invece di un sistema di previsione delle alluvioni che è stato inventato da un signore e noi ci domandiamo se possiamo utilizzarlo in tutti i luoghi a rischio. Con noi Sergio Urbani, informatico, ideatore di questo sistema che si chiama Sistema Gestione Eventi Calamitosi. Buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Che è, diciamo, l'acronimo è SGECH, così? Sì, SGECH. Sistema Gestione Eventi Calamitosi. Come lo pronuncia lei? SGECH. Ma si può, all'italiana. SGECH è ancora più bello, il famoso sgnecco, che uno si sente sgnecco con le ossa un po' rotte. Sa un po' di cosa veneta, perché in effetti siamo in Veneto e questa invenzione che nasce in collaborazione tra l'altro con la Protezione Civile nasce proprio dopo eventi calamitosi, no? Esatto. Ce lo vuoi ricordare? Sì, noi partiamo 3 anni fa con la più grande frana che c'è in Italia, che è quella del Monte Rodolon di Recuaro Terme. E da lì abbiamo capito che mancava il sistema, per cui abbiamo cominciato a pensare a qualcosa. A qualcosa. In realtà siamo un team di persone. Ecco, siete un team, c'è lei che è un informatico, c'è la Protezione Civile, vuol ricordare anche chi è che ha collaborato a questa cosa? Federico Brentan, abbiamo abbiamo parecchi insomma che collaborano, però sì, la società poi si basa sulla mia, che è USM, mm-hmm, è il mio acronimo Urbani Sergio Mariano. Perfetto. È un appassionato di acronimi lei. Perché sono comodi. Certo. Sono sbrigativi e comodi. Veneto è pragmatico. Esatto, pragmatico. È molto veneta come risposta. Ci spiega come funziona, diciamo con parole abbastanza semplici. È molto semplice, molto semplice. Intanto serve per allertare in tempo reale su situazioni di esondazioni e frane, infatti parte come sistema franoso, e anche prossimamente di terremoti, non come prevenzione ma come monitoraggio. Ecco, questi sono i tre punti fondamentali. E c'è praticamente un sistema software, un database proprietario, una valigia che è un IP67, quindi resiste un po' a tutto, e dentro questa valigia abbiamo messo un mucchio di tecnologia nostra. Mm-hmm. Questa valigia si collega con dei sensori che vengono posizionati dove serve, sono di vario tipo, anche questi sviluppati da noi, e una volta che la valigia ha le informazioni le manda attraverso tutte le possibili fonti di trasmissione, quindi si va da 3G, 4G, Wi-Fi, ponti radio della protezione civile eccetera, le manda ai responsabili, ai cruscotti operativi del COC piuttosto che di chi ha bisogno di sapere informazioni. Ecco, ma alla valigia, io non ho capito, alla valigia arrivano informazioni da dei sensori che immagino che siano messi, non so, sì, vicino agli argini del fiume? Bravissimo, vengono posizionati lungo gli argini dei fiumi o a fronte frana o nella frana stessa o laddove c'è da monitorare una situazione a rischio, perché monitoriamo anche il territorio e riusciamo poi in tempo reale, ripeto, perché attualmente tutti i sistemi utilizzati hanno bisogno di da 40 a 2 ore di tempo per fornire informazioni. Da 40 minuti a 2 ore, questo è il punto importante, perché 40 minuti, il tempo che si impiega normalmente, tanti, può sembrare poco, ma invece è tantissimo, addirittura un'ora, 2 ore, è questa la svolta, no? Cioè la possibilità di avere in tempo reale e di capire veramente in tempo, certo, subito quello che sta succedendo e che potrebbe servire proprio a intervenire tempestivamente, a togliere di mezzo questo alibi ogni volta che c'è di dire certo, ma l'allerta è arrivato troppo dopo, oppure non si sapeva esattamente che tipo di allerta, esatto, fosse. In questo esatto modo che cosa succede? Beh, intanto c'è da dire che la valigia può essere messa in posto sicuro perché comunica con i sensori in maniera radio e quindi è autoalimentata, ha un pannello solare, quindi una volta posizionata in un posto sicuro, lontano dai sensori, io posso anche dimenticarmela per un paio d'anni. I sensori anche per un paio d'anni sono autoalimentati, per cui non hanno bisogno di nessun tipo di manutenzione, e queste informazioni che vengono raccolte poi vengono canalizzate in questo database e fornite al momento della necessità. La parte bella forse è che queste informazioni, una volta che il sindaco, che sappiamo essere il deterrente della sicurezza del comune, sì, quindi deve essere lui che dà l'ok, una volta che dà l'ok poi attraverso un'applicazione andiamo a contattare le singole persone interessate all'eventuale esondazione. E lì si può utilizzare email, sms, esatto, telefonate. Abbiamo direttamente un'applicazione tutto nostra, sì, un'applicazione che si chiama Dialoga. Ma mi scusi, ma per capire, visto quello che è successo a Livorno, se questo sistema fosse stato attuato a Livorno prima di tutto quello che è accaduto, sarebbe migliorata la situazione? Beh, sicuramente avrebbero avuto un po' di tempo per mettersi in sicurezza. Più questo tempo, sì, è chiaro che noi non possiamo fermare i fiumi. Assolutamente. No, questo noi lavoriamo sul tempo. E si parla di un'ora e mezza. Sì. 40 minuti direi, per essere obiettivo. Diciamo anche però che lo state già sperimentando al Ponte degli Alpini, se ho letto, sì, bene, a Bassano, e anche per il Brenta, per il livello, bravissimo, del Brenta. E come va? Nel caso specifico, va bene perché non ci sono state esondazioni. Però in quel caso specifico lì noi riusciamo a dare questa informazione del livello e della portata del fiume 40 sì minuti prima di quello che fa l'ARPAV, il pluviometro che c'è ufficiale posizionato sul Brenta, e questa informazione assieme a tutti i sensori che abbiamo posizionato sul ponte e che ci danno, e l'abbiamo fatto con l'Università di Padova, quindi sono stati loro che ci hanno dato le necessità e noi abbiamo coperto le necessità con i nostri sensori, sì, e quindi in tempo reale riusciamo a sapere quando c'è un'emergenza chiudiamo in automatico i semafori del ponte, quindi chiudiamo il traffico 40 minuti prima, e non è poco, ripetiamo, 40 minuti, anzi è tantissimo. Senta, ma è vero che c'è stato alla Spezia un raduno delle comunità colpite dalle alluvioni, è stato manifestato interesse per questo vostro sistema diciamo, per poterlo adottare in altri comuni, in altre realtà a rischio? Certo, io sono stato invitato 2 anni fa ancora, quindi si parla di tempi quando c'è stata l'altra alluvione. Sì. E sono stato invitato, hanno fatto una bellissima manifestazione di terremotati ed esondati. Sì. E quindi hanno messo assieme le 2 calamità più grosse poi che ci sono in Italia attualmente. E praticamente noi abbiamo mostrato il nostro sistema. Da qui un grande interesse, però poi... purtroppo i soldi non ce ne sono per queste cose. Ecco, però, ecco, ma a proposito di soldi, esatto, quanto costa questo kit, questa valigia? È bellissimo che lei la chiama valigia, perché valigia. Io mi immagino veramente una cosa da 007, la valigia indistruttibile IP67. Se andate sul sito vedete che effettivamente è una valigia con tanto di stemma della regione Veneto, perché ci conoscono e ci hanno appoggiato anche loro. Però no, quanto, ma quanto costa? Tenetevi forte, ascoltatori, perché il prezzo è... La valigia va conforme all'assessoristica che poi ci si applica, è compreso anche, ma direi completo, va dai 12 ai 16 mila euro. Ecco, 12-16 mila euro, non, cioè non è tanto... Io dico, ma cosa ci vuole? Cosa ci vuole da parte delle amministrazioni pubbliche adottare questo sistema, a comprare una cosa, a investire soldi pubblici per salvare, sembra retorica, ma è così, delle vite umane. Ma cosa ci vuole anche a investire in un sistema che può creare sulla sicurezza una filiera anche occupazionale, si dà lavoro anche a dei tecnici? Cosa ci vuole? E poi soprattutto mi inserisco per dire che costa dai 12 ai 16 mila, ma secondo me se i comuni si mettono un po' insieme e vengono da lei, forse gli fate anche uno sconto, no? Beh, assolutamente sì, perché diciamo che adesso stiamo studiando anche delle forme di affitto e quindi si può anche pensare di darle in comodato d'uso piuttosto che... l'abbiamo industrializzata, quindi anche i costi scenderanno parecchio. Vi hanno contattato problema... anche da Pompei, giusto? Sì. Sì. Lì, diciamo che come ho detto in precedenza a un giornalista, noi vorremmo lavorare più sui vivi che sui morti, però certo, ci hanno contattato perché effettivamente anche una situazione di monitoraggio di muri come quella di Pompei, che poi di questo si tratta, in tempo reale è un'altra cosa, insomma, so che dovrà cadere invece di dire è caduto come fa il satellite. Certo. Adesso a Pompei non sta cadendo più niente da un po' di tempo a questa parte, per fortuna. Siete stati contattati anche dall'Austria e dalla Germania, ho letto. Sì, mi sa che andremo più all'estero che in Italia, purtroppo. Perché purtroppo anche per noi, se possiamo dire, perché purtroppo sì. Inventiamo sistemi per salvare le vite degli altri. Sì, è un classico comunque, in Italia se ne parla quando ci sono i morti, l'emergenza. E subito dopo si gira pagina, non se ne parla più. Allora, io lo ripeto e lo chiedo anche agli ascoltatori all'800 24 00 24, se vorranno intervenire, cosa ci vuole a investire del denaro pubblico? Se ne spende tanto in tantissimi modi sbagliati, purtroppo, per comprare un sistema come questo, SJECK, ce ne saranno anche degli altri, ma questo è stato già applicato, provato, nasce da un luogo dove ci sono state frane e alluvioni molto importanti, che funziona e può dare 40 minuti, un'ora, un'ora e mezza di tempo in più per intervenire salvarsi e salvare delle vite umane. Più di questo, cosa dobbiamo fare, Urbani? In bocca al lupo per questa invenzione. Grazie. Speriamo che qualcuno la chiami, speriamo che i sindaci, gli amministratori, gli assessori si sveglino e qualcuno la chiami, perché abbiamo già degli appuntamenti sul Feltrino, su Bolzano, sulla parte diciamo del Trentino, e speriamo che anche nelle nostre parti si chiamino. Bravi, svegliatevi, perché questa è una cosa veramente utile. Jack, grazie Urbani. Grazie mille. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, bisogna dire che di sistemi come questi ne esisteranno sicuramente degli altri, uno per esempio sviluppato anche dall'Università di Firenze per le frane, ne avevamo parlato. Sì, no, sì, ma non vuole essere una pubblicità per questo nello specifico, anche perché non è che noi ce ne intendiamo di valigie IP67, esatto, o altro. Però è l'idea. Però è l'idea che in realtà 15.000 euro. Esatto, un monitoraggio oggi, usiamo le nuove tecnologie per quello che ci può aiutare invece che per il cyberbullismo. Che diamine, 800 24 00 24, torniamo tra pochissimo. si può fare. Cinquantasettesimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta... Perché andare in bicicletta, scrive Giorgio, tra i tanti motivi, perché è bello. Non è sufficiente per vincere un premio, esatto, tu dici. Vogliamo qualcosa di un po' più, esatto, circostanziato. Invece riguardo alla valigia di cui abbiamo appena parlato, ci scrivono che la facciano pagare in bolletta tutta Italia la valigia. Non so se sia una buona idea, visto che adesso in bolletta è appena entrato il canone. Non è che si può mettere tutto in bolletta, non è che basta mettere in bolletta, insomma, anche perché le tasse già si pagano da altre parti. E quando si tratta di pagare coi soldi pubblici sono gli ascoltatori che partono subito, sai, quelli di Giannino in particolare. Ma coi soldi dello Stato? No, questa era buona. Era che la facciano pagare in bolletta. Invece quello che dicevamo noi è forse le amministrazioni pubbliche, anche se hanno pochi soldi, con i pochi soldi che hanno, visto che stiamo parlando di 12-16 mila euro per salvare delle vite umane, forse è un investimento che si può fare e non di andare a chiedere nuovi soldi. Anche al Mapelli di Monza mancano i banchi, aiutiamo anche loro. Abbiamo fatto un appello per una scuola di Palermo, ma evidentemente i banchi mancano anche altrove. Poi c'è un ascoltatore che ci ricorda a Pavia fino a domenica il Festival delle Bici, visto che abbiamo parlato di bici. E te ne leggo un ultimo, sì. Siete vergognosi sul Movimento 5 Stelle, fake news, e sulla Raggi gettate fango. È interessante perché credo che il nome Raggi non l'avevamo ancora proprio nemmeno pronunciato, e quindi non capiamo su che cosa vergognosi sul Movimento 5 Stelle, di cui abbiamo detto semplicemente che chi vincerà le primarie poi sarà il nuovo capo al posto di Grillo. Carla da Torino, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno. Eccola qua. Buongiorno. In una disgrazia ho avuto fortuna, dovevo essere operata di cataratta, mi scadeva la patente, non me l'hanno rinnovata, mi sono trovata a piedi. Cosa ho fatto? 72 anni, sì. Mi sono comprata una Graziella. Però ho provato dopo tanti anni di macchina, non tenevo la stabilità. Allora mi sono inventata di andare a cercare le ruote come i bambini di dietro. Sì. Però mi hanno riso dietro i negozi, dice: signora, lei pesa 68 kg non con queste ruotine. Allora mi dice: guardi che c'è forse qui uno che aggiusta le biciclette, una ditta che le fa di ferro a suo peso e tutto. Parto e vado, mi dice: signora, non le dico neanche il prezzo, bassissimo, quasi niente. Bravo. Io gliele metto le due ruote di dietro e io giro con le ruotine dei bambini. Ma che meraviglia! No, sono le ruotine di Carla, sono le ruotine di Carla, non sono quelle dei bambini, sono quelle adattate per un adulto. Allora, e io vado in giro in triciclo, ciò vuol dire, non mi vergogno, la gente mi guarda, che tante persone anziane che si comprano una bici, non hanno, non si sentono la stabilità, si fanno mettere le ruotelline da dietro, torniamo bambini, e vai in bicicletta e giri e pedali e fa bene anche alla salute. È bellissima, è una storia bellissima, però le devo chiedere questo: com'è andata con la cataratta, nel senso che ci vede bene comunque? Allora, sentite bene, la cataratta non è una grossa, la gente ha paura. Io l'ho avuta due anni fa, nel 74. E un attimo con il laser ti cambiano il cristallino. Ma qui però sforiamo, andiamo sul programma di Nicoletta Carbone. No, io volevo, un'altra cosa. No, volevo dire questo, perché sennò sembra semplicemente che uno dice: adesso senza vederci andrà in giro in bicicletta, no, e sarà un pericolo pubblico. Invece volevo semplicemente dire che invece è un'ottima scelta quella della bicicletta. E poi comunque lei in bicicletta non crea danno per nessuno, anche se magari ci vede poco, va piano piano, sai, in macchina è più pericoloso. Poi la patente non gli hanno data. Ma c'è un altro ascoltatore che ci ha scritto la stessa cosa: sono rimasto senza patente, me l'hanno tolta e quindi ho cominciato a usare la bicicletta, vedi? Andiamo con Federico da Milano. Sì, volete una ragione? Ve ne do una carrettata di ragioni. Primissima, in città in bicicletta arrivi prima. Esempio, percorso Città Studi, zona Garibaldi. Parliamo di Milano? Sì, Milano, con i mezzi pubblici, bene che vada, mezz'ora, bicicletta 10 minuti. La prima volta è stata 20, poi sono diventati 10. E quando piove? Quando piove ti bagni, non piove mica acido solforico, poi dopo ti asciughi. Poi Milano piove poco. Io sono pigro. No, non solo la pigrizia è irrilevante, è un fatto, no, non è molto peggio, è molto più faticoso guidare in città. Un altro buon motivo, per esempio in regione Lombardia, con Trenord, con 60 euro ti porti la bicicletta, qualsiasi bicicletta, anche non pieghevole, in treno in tutta la regione tutto l'anno, 60 euro. Buono, vedi, questo non lo sapevo. Quindi scusami Federico, un pendolare, uno che viene da... Io sono un pendolare, uno che prende il treno tutti i giorni per venire, che ne so, da Monza, piuttosto anche magari più lontano, certo. Eccetera, si prende il suo trenino con la sua biciclettina, arriva a Milano, poi anziché prendere l'autobus o la metropolitana, eccetera, eccetera, parte in biciclettina e se 300 km alla settimana di pendolarismo con meno di 20 euro. Questo è un altro motivo, poi ne hai ancora? Sì, certo, poi un altro buon motivo, vabbè, è quello della salute, ti risparmi, sì, abbiamo già detto. Quello dei soldi, poi... ce l'ha tutti Federico. Il premio, ti avvisiamo che il premio era un libro cartaceo, ma credo che tu stia per vincere proprio il Sole 24 Ore tutto. Sì, poi ecco, no, invece accorgimenti per il furto. Allora, prima cosa, la bicicletta deve essere brutta. Meccanicamente efficiente, un orologio però deve essere brutta, non deve attirare malintenzionati. Le prendo in discarica, poi siccome sono ancora troppo belle le vernicio come dei... Sì, si trova in discarica, c'è un sacco di gente che butta. Tu vai in discarica e ti danno le biciclette, sì, che hanno buttato via. Come si chiama, nelle isole ecologiche, ogni tanto vedi le biciclette e certo, te la prendi su con 20-30 euro, le dai una regolatina e poi appunto devi verniciarla come un cancello in modo che diventi poco appetibile. Però non va detta questa cosa, soprattutto non va detta in radio davanti. Se lo sanno i ladri che in realtà le biciclette brutte sono biciclette perfettamente funzionanti, inizieranno a rubare anche quelle. Diventano comunque inappetibili una volta sono verniciate male. Poi ecco, quando la leghi ti porti via la sella e a questo punto non c'è più il business, perché una sella costa 10-15 euro. Perché a volte uno pensa gli hanno rubato il sellino, no, invece sei tu, no, che te lo sei portato via. Antifurto il sellino. A meno che non ci siano ladri molto coraggiosi, e mi fermo qui. Oppure magari gli piace. Niente, adesso poi altre non sì, sono sfuggite. Però devi, scusa, con quale però di tutti i suggerimenti, tutti i buoni motivi che hai dato, vuoi partecipare oggi? Perché devi scegliere uno. Sei perfido, Alessio. Sì, perché poi il notaio. Quello della velocità e quello del risparmio. Un ultimo appunto. Allora, a Parigi la sindaca vuole chiudere la riva nord della Senna al traffico privato automobilistico, e quindi privilegia le biciclette. A Milano invece noi abbiamo dei divieti di transito per le biciclette in città, che è un assurdo. Il divieto dovrebbe essere per le automobili e invece c'è il divieto per le biciclette. Sì. Io andrei avanti ore con Federico. Posso farti una domanda? Perché sì, a questo punto hai parlato di Milano, le piste ciclabili che stanno realizzando a Milano. No, visto... le piste ciclabili non le uso perché sono perennemente invase dai pedoni, quindi ti costringono ad andare a passo d'uomo. Anche perché bisogna dire una cosa, che spesso qui in via Monterosa lo stanno facendo, mi duole dirlo, caro comune di Milano, fanno la pista ciclabile riducendo la larghezza del marciapiede, quindi se ci sono un po' di pedoni è chiaro che poi cosa fanno? Sconfinano sulla ciclabile, i ciclisti tornano sulla strada. Però qualche cosa bisognerà ridurre se devi fare una pista ciclabile, non è che cosa puoi fare, puoi mica spostare le case. Basta, chiudiamola qua, grazie Federico. Ciao. Grazie mille. Adesso è molto difficile portare via il premio a Federico, ma noi ovviamente aspettiamo altre telefonate. Si può fare. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Allora, il sito della valigia, ci chiedono gli ascoltatori all'SMS, e il sito è molto semplice, SGEC, Sistema Gestioni Eventi Calamitosi, è l'acronimo SGEC. Invece un bellissimo messaggino, una signora che dice: 61 anni, la scorsa settimana mio figlio mi ha detto che ho la coscettina più tirata di una ventenne. Sapete perché? Perché vado in bici. Quindi un altro buon motivo avere la coscettina, Da ventenne a 61 anni. Fantastico. Ancora un po' di tempo, 800 24 00 24 per chiamare e darci una buona ragione per lasciare a casa l'auto e prendere la bicicletta. Intanto andiamo a Genova, dove c'è una nuova iniziativa del comune contro gli eccessi alcolici in città, soprattutto dei giovani. Carissimi amici e più giovani soprattutto, bevete per piacere, ma per il piacere, però non per bevete per piacere ma non per annientarvi, per fare per ridurvi proprio in cenere, perché quello che succede, esagerando, fine della morale. Assessore alla sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatori di Radio 24. C'eravamo sentiti qualche tempo fa, perché c'erano state delle ordinanze sempre vostre sul divieto di vendita dopo una certa ora, sì, e anche il trasporto di bottiglie. Stavolta provate una strada meno proibizionista, più morbida, più coinvolgente, possiamo dire così? Ci racconti? Più smart, direbbero i giovani. Bravo. Sì, le due cose sono affiancate. Cioè, da una parte noi vogliamo fare prevenzione e dall'altra ovviamente chi non capisce che è importante non bere, non fare determinate cose, è chiaro che ci sono le sanzioni. Quindi noi abbiamo studiato questo concorso dove i giovani possono mandare, ora poi lo stiamo ancora delineando con i nostri uffici, sì, la ricetta del cocktail analcolico, ovviamente migliore, sarà premiato con una coppa e un piccolo premio in denaro, e chiederemo ai locali della zona di poterlo inserire nel listino dei cocktail dei loro bar. Quindi insomma anche una cosa molto trendy. A un prezzo più basso, speriamo. Naturalmente sì. Mettiamoci anche lo sconto per incentivare. Senta, non c'è l'alcol. Rispetto al passato c'è un aumento? Che dati avete sul consumo di alcol dei ragazzi nella vostra città? Queste iniziative nascono proprio perché c'è un allarme, parlando con gli operatori ASL e soprattutto anche con il primario dell'ospedale Galliera, che è quello più vicino alla zona della Movida, che mi dice che il venerdì e il sabato c'è un picco di ricoveri dovuti alle volte anche a coma etilico. Ricoveri per coma etilico, ragazzi, non scherziamo. Giovanissimi, parliamo di giovanissimi 14-17, questa è la cosa ancora più inquietante. Il piacere di bere che diventa una tragedia, diventa veramente una cosa assurda. Ma perché l'alcol non si può vendere prima dei 18 anni, è così? Esatto, dovrebbe esserci il divieto da parte di tutti gli operatori di vendere ai minorenni fino ai 18 anni, invece ovviamente c'è chi se ne frega del divieto. Ma le volevo, forse è un po' fuori tema, ma le volevo chiedere una cosa: ma non sarebbe meglio dividere tra superalcolici e alcolici normali per i divieti? Perché che uno a 17 anni possa bersi una birra non mi sembra un problema. La legge non è una legge locale, certo, per gli alcolici è una legge nazionale, quindi bisogna chiederlo al Parlamento, semmai. In ogni caso, incentivare l'uso dell'alcol non è mai positivo, è come dire fumare una sigaretta anziché 20, poi alla fine se prendi il vizio lo prendi, punto. Allora cerchiamo semmai di fare questo ragionamento dalla maggiore età poi, sì, perché sennò rischiamo di far passare un brutto messaggio dove se bevacchi un po' va bene, però a 14 anni ci sono degli effetti altamente negativi sulla salute. Assolutamente, assessore, quello che voleva dire Carlo, ma comunque torneremo su Genova, quando sarà pronto il bando. Intanto la ringraziamo. Quello che mi sento di dire anch'io è che un conto è bersi un bicchiere di birra, un conto è a 14 anni cominciare a consumare super alcolici. Esatto, che nel giro di poco dicevo tempo ti mandano, ti stendono, ti portano KO e si arriva al coma etilico. Perché quando uno esce la sera, comunque un pochino certo che ha anche voglia di bere qualche cosa. Se si beve una birra invece che 4 gin tonic e hai 17 anni, forse è meglio. Dobbiamo chiudere, credo, e quindi non c'è tempo per l'ascoltatrice in onda, Marta da Palermo. Se vuole ci può chiamare domani, continuiamo a chiedervi. Allora, buone domattina ragioni, sì, per abbandonare l'auto e utilizzare la bicicletta. Quindi facciamo così, diciamo domani chi vince il premio di oggi, così va diamo bene, ancora tempo per intervenire domani. La sentiamo noi fuori onda. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Andrea Roccabella in regia. Ci sentiamo domani alle 8:10 con Si può fare. Ciao da Alessio Maurizzi. E ciao da Carlo Gabardini.